siamo con Cristiano Cremonini, Chris La Torre come nome d'arte, che sarà presente domenica 7 agosto a agosto con noi. Intanto grazie, Cristiano, oppure Chris, come ti devo chiamare? Come preferite, va benissimo. Cristiano è mio nome. La Torre è azzeccato perché sei altissimo. È uno dei motivi per la scelta di questo nome d'arte, è uno dei motivi. Ma dunque, io credo che questo sia il decimo anno che partecipo ad agosto con noi. Partecipo con grande orgoglio. Ovviamente il professor Maltoni è stato uno scienziato di fama internazionale del Novecento, insomma, quindi specializzato nel settore dell'oncologia. Sono felice e fierissimo che la nostra città l'anno scorso gli abbia dedicato, in occasione del ventennale della sua morte, gli abbia dedicato un ponte, quindi questo è bellissimo ricordarlo in questo modo, e quindi non mi resta che dire che partecipo con grande gioia a questa iniziativa. Canterò, magari posso fare un accenno. Allora, te lo volevo chiedere, infatti. Io in piena pandemia, in lockdown, ho lanciato una canzone che era ispirata a una lettera di congedo dal mondo di Lucio Dalla, e si chiama Dalla finestra di Lucio. Casualità, proprio quando il mondo si affacciava alla finestra, Lucio scrisse un anno e mezzo prima di morire questa lettera lunghissima, una bellissima riflessione, dove lui si affacciava a una finestra ideale, che era un po' un ponte fra la terra e il cielo. E ho lanciato con un discreto successo questa canzone, quindi sicuramente, quest'anno che ricorre il decennale della sua morte, sicuramente lo omaggerò con questo brano, quindi canterò Dalla finestra di Lucio. Canterò un altro brano mio che si intitola Fidati dei tuoi sogni, che è un messaggio di speranza rivolto alle nuove generazioni di artisti, che è anche diventato poi il titolo di un concorso per giovani cantautori. E poi ovviamente farò un omaggio alla lirica, perché io ho fatto 20 anni di lirica pura girando mezzo mondo, e quindi sicuramente canterò Penso Nessun Dorma, che è un po' il brano principe di noi tenori, insomma. Canterò una versione, tra l'altro, con un arrangiamento in stile jazz con la tromba di Frank Nemola. Quindi, insomma, questo è molto interessante. Sì. Non è il solito Nessun Dorma. No, assolutamente. Io qualche anno fa sono uscito con un mio primo album pop, e questo era il brano di coda che chiudeva il mio primo album pop come artista crossover, ed è un brano che ha avuto, devo dire, un discreto successo, un ottimo successo. Benissimo, allora arrivederci al 7 agosto, domenica, in cui ci sarà, tra gli altri, perché il 7 agosto fra l'altro ci sarà anche Iskra Menarini, il duo Giampiero Sterpi, Alessia De Pasquale, Dance Studio 63, e avremo anche Cristiano Cremonini, tenore dirottato al pop, perché ormai tu sei dirottato, non sei prestato. No, ormai sì, dirottato. Ora di opera scrivo solamente, e sono già al terzo libro sulla storia dell'opera, anzi adesso l'ultimo che ho scritto a dicembre, ho presentato al Teatro Comunale, proprio sulla storia del teatro comunale. C'era una ricorrenza importante, che era l'approdo di Wagner, della musica di Wagner. Erano i 150 anni della musica di Wagner a Bologna, e quindi in quell'occasione ho pensato di fare un omaggio al teatro comunale, che mi ha ospitato per tanti anni, insomma.